regista tutto. E eravamo, ci eravamo interrotti dopo nel vedere, diciamo, il magistero recente sul tema del peccato originale. Ci eravamo interrotti e avevamo visto il Concilio Vaticano II. Avevamo sottolineato il fatto che il Concilio mette un accento sulla storicità del racconto delle origini, cioè dell'esistenza di Adamo e del peccato di Adamo come di un fatto storico, cioè accaduto all'inizio dell'umanità. E anche se appunto il Concilio non ne ha trattato in modo particolareggiato del peccato originale, però tutti gli accenni che fa mantengono questo tipo di danno questo tipo di visione delle cose. In particolare, diciamo, Gaudium Spes al numero 13 e al numero 22. Poi un altro intervento magisteriale degno di nota, anzi altri due, sono quelli di Paolo VI. Paolo VI fece un discorso a Roma a un simposio, un convegno sul mistero del peccato originale nel 1966. E, anzi, luglio... Beh, ho due riferimenti, luglio 65 e luglio 66, comunque non sono sicuro, 65 o 66, ma penso più probabile 66. La differenza c'è in mezzo alla fine. Infatti. Paolo VI, anche lui, mette l'accento sulla storicità del peccato originale originante, cioè di quello di Adamo, perché quello originato è il peccato originale in noi. E dice il Papa, disse il Papa, sembreranno inconciliabili con la genuina dottrina cattolica le spiegazioni che del peccato originale danno alcuni autori moderni, i quali, partendo dal presupposto che non è stato dimostrato del poligenismo, negano più o meno chiaramente che il peccato, donde è derivata tanta colluvio di mali nell'umanità, sia stato anzitutto la disobbedienza di Adamo, primo uomo, figura di quello futuro, cioè di Gesù, commessa all'inizio della storia. Quindi la parte, seconda parte della frase, questa è chiara sul dire che per Paolo VI non si può negare che il peccato da cui è derivata tanta, tanta negatività per l'umanità sia stato anzitutto la disobbedienza di Adamo, primo uomo, all'inizio della storia, storicità. E di passaggio, in un modo anche qui piuttosto riprendendo senz'altro Pio XII riguardo al poligenismo, di passaggio, però neanche tanto di passaggio, dice: alcuni autori moderni, partendo dal presupposto del poligenismo, che non è stato dimostrato, arrivano a negare che il peccato di Adamo sia stato il primo peccato e da cui è derivato tutto il resto. Quindi, diciamo, anche qui Paolo VI si dimostra, direi, piuttosto refrattario all'idea del poligenismo, senz'altro. Poi l'altro testo è quello del Credo del Popolo di Dio di Paolo VI, sempre, e di cui io qui ho, lo si può cercare, però ho solo un brevissimo stralcio, dove si dice che riteniamo con il Concilio di Trento che il peccato originale viene trasmesso insieme con la natura umana non per imitazione ma per propagazione, e che perciò è proprio ciascuno, mi manca la parte precedente in cui comunque immagino che abbia fatto riferimento al peccato di Adamo, ad ogni modo Bisognerebbe vedere il testo, io qui ho una citazione breve, ma comunque anche in quel testo c'è, ecco, una sottolineatura del carattere storico del peccato originale. E, ecco, dopo Paolo VI, se andassimo in ordine, dovremmo vedere adesso il catechismo della Chiesa Cattolica, poi il compendio, però io lascerei il catechismo alla fine, perché a quel punto dal catechismo vorrei anche ricavare un po' un quadro di sintesi della dottrina come viene espressa dal Magistero recente. Siccome il compendio poi è un sunto di quello che dice il catechismo, non apporta, non ci sono novità, allora vediamo, vedremo prima il compendio e poi il catechismo. Prima ancora vediamo un intervento di Giovanni Paolo II del 1996, lo vediamo adesso anche perché comunque un po' si discosta dal tema della storicità del peccato originale, ma fa riferimento al discorso sull'evoluzione, nel caso l'evoluzione che spiega le origini dell'uomo, in che termini è accettabile, in che termini invece è da precisare con la fede, con la dottrina della Chiesa. Così anche un po' per quello che diceva Carlo ieri, vediamo quello che dice. Lui parla, Giovanni Paolo II, alla Pontificia Accademia delle Scienze nel 1996 e dice... Giovanni Paolo II, dopo aver espresso il parere che l'evoluzionismo non sia più una semplice ipotesi, ma una vera e propria teoria, dati numerosi riscontri scientifici, ritiene, Giovanni Paolo II, qui parla l'autore, sulle tracce di Pio XII, che occorra distinguere tra un evoluzionismo accettabile e uno inaccettabile per la fede cristiana. Quindi dice, l'evoluzione ha preso corpo e si può dire che sia una teoria, non più solo un'ipotesi, anche se una teoria che ha ancora molti punti oscuri, molte lacune, non c'è una sola teoria dell'evoluzione, ma ce ne sono varie. Comunque, l'evoluzionismo, cioè la visione filosofica che uno può ricavare dalla teoria dell'evoluzione, in quanto visione filosofica può essercene una accettabile in base alla fede cristiana e un'altra o altre inaccettabili. Allora, vediamo cosa dice, qual è quello accettabile. È accettabile che la scienza naturale spieghi evoluzionisticamente lo sviluppo della materia e della corporeità, mentre invece le teorie dell'evoluzione che, in funzione delle filosofie che le ispirano, considerano lo spirito come emergente dalle forze della materia viva o come un semplice epifenomeno di questa materia, sono incompatibili con la verità dell'uomo. Cioè il punto critico che distingue tra una visione evoluzionistica accettabile, anche se poi bisognerà vedere se è la descrizione giusta e vera sul piano scientifico, comunque accettabile dal punto di vista della fede oppure non accettabile, il punto critico è l'affermazione che lo spirito, la spiritualità dell'uomo, deriva come per forza propria dalla materia, da una migliore organizzazione della materia. Oppure, invece, come dirà adesso Giovanni Paolo II, affermare che lo spirito deriva da un intervento di Dio. Se si vuole spiegare anche l'insorgere dello spirito solo in base alle forze della materia viva, dice, o come anche la seconda cosa è una manifestazione della materia, un epifenomeno della materia, che significherebbe negare ciò che è proprio dello spirito, quello che si riesce a comprendere con la riflessione filosofica, no? La capacità di astrazione dell'uomo, la capacità di l'autocoscienza, il senso estetico, cioè, tutto quello che noi con una corretta visione filosofica comprendiamo che non è fenomeno materiale, ma è un dinamismo che non può derivare dalla materia, anche se si può appoggiare, diciamo, sulla materia, però di per sé è un dinamismo che è un principio diverso, appunto spirituale. Quindi è sbagliato sia dire che lo spirito è in fondo in realtà un fenomeno della materia, oppure che è sorto dalle forze della materia per una capacità di organizzazione della materia ulteriore. Papa Wojtyła ritiene che qualora gli scienziati pensassero di derivare lo spirito dalla materia, esulerebbero dalle loro competenze. Dice poi, le scienze non escludono affatto, cioè non possono escludere, quella differenza di ordine ontologico, quel salto ontologico che esiste tra l'uomo e il resto del creato. E adesso riporto un pensiero di Giovanni Paolo II. Le scienze dell'osservazione descrivono e valutano con sempre maggiore precisione le molteplici manifestazioni della vita e le iscrivono nella linea del tempo. Il momento del passaggio all'ambito spirituale non è oggetto di un'osservazione di questo tipo, non è rilevabile dalla paleontologia quando c'è stato il passaggio allo spirituale. Il momento del passaggio all'ambito spirituale non è oggetto di un'osservazione di questo tipo, scientifica, che comunque può rivelare, questo passaggio, a livello sperimentale una serie di segni molto preziosi della specificità dell'essere umano. Cioè, non si può vedere il momento in cui è apparso lo spirito, però poi dopo si potranno trovare tracce, come di fatto si vede, della cultura, della capacità di pensiero, di progetto, dell'uomo, eccetera, eccetera. Quindi l'apparizione dello spirito lascia poi dei segni tangibili e rinvenibili anche dalla scienza. Però quando si è dato questo salto, la scienza non lo sa vedere. E poi chiarisce che l'esperienza del sapere metafisico, della coscienza di sé e della propria riflessività sono tutte manifestazioni dello spirito, ma della coscienza morale, della libertà e anche l'esperienza estetica e religiosa sono di competenza dell'analisi e della riflessione filosofiche. Mentre la teologia ne coglie il senso ultimo secondo il disegno del creatore. Cioè, la filosofia è quella che è capace di individuare ciò che è specifico dell'uomo, che è l'ambito spirituale. E la teologia sa dare ragione di questo. La teologia in fondo dice che l'uomo è fatto immagine di Dio e quindi per questo è razionale, è libero, è capace di amare se vuole, eccetera. E ecco, questo per dare un po' la... Quindi noi così, adesso, tante volte anche buoni cristiani vedono con molto sospetto la teoria dell'evoluzione. Mi sembra che questo, diciamo, mette lo spartiacque fondamentale. Lasciamo che la teoria dell'evoluzione vada avanti. Teoria dell'evoluzione e non dell'evoluzione di un oggetto. Teoria dell'evoluzione è una teoria scientifica che dovrebbe, se fatta correttamente, basarsi su delle osservazioni, i ritrovamenti di e cercare di fare un modello teorico che spieghi come le varie specie di cui noi troviamo dei resti si sono formate e sono evolute o si è passati da una specie all'altra, se si è passata. Invece evoluzionismo è una concezione filosofica. Per esempio, la concezione filosofica che afferma che tutto l'esistente, compreso l'uomo, così com'è, anche con le sue caratteristiche prettamente umane, è emerso dall'organizzazione sempre più raffinata ed evoluta della natura, senza l'intervento di Dio. Allora, questa è già un'interpretazione, una visione filosofica che si sovrappone ai dati diciamo, ai dati di fatto. E quindi questa può essere corretta o sbagliata. Giovanni Paolo II ti dice: una visione filosofica che, partendo dalla teoria dell'evoluzione, estrapolando, facendo affermazioni che non sono più scientifiche, ma sono semmai di ragione su un altro piano, vuole dire che l'uomo si è formato dalla materia e basta, non è accettabile, perché tra la materia e lo spirito c'è un salto ontologico. Quindi lo spirito è apparso quando Dio ha deciso di creare un essere umano. Va bene, ecco, detto questo, vediamo il compendio. Il compendio l'abbiamo anche letto nei giorni scorsi, quello che dice, e sono tre punti, direi fondamentalmente, comunque, 75, 76, 77, 78, quattro punti in realtà. Sottolineo solo alcune affermazioni. Nel 75 si dice: Adamo ed Eva, tentati dal diavolo, hanno disobbedito a Dio, mancando di fiducia nei confronti del creatore, e hanno perso immediatamente per sé e per tutti i loro discendenti la grazia originale della santità e della giustizia. Quindi Adamo ed Eva hanno perso per se stessi e per tutti noi la grazia originale della santità e della giustizia. Santità e giustizia possiamo sempre intenderle, santità è propriamente l'essere in grazia di Dio, avere la relazione con Dio aperta, e invece giustizia è quello che è lo stato di, diciamo, quelli che la teologia classica ha chiamato i doni preternaturali, l'integrità, il dominio sulle passioni e la possibilità di non morire, l'impassibilità e la mancanza della morte. Che cos'è il peccato originale? Numero 76. Il peccato originale nel quale tutti gli uomini nascono è lo stato di privazione della santità e della giustizia originali. È un peccato da noi contratto, non commesso, una condizione di nascita e non un atto personale. A motivo dell'unità di origine di tutti gli uomini, esso si trasmette ai discendenti di Adamo con la natura umana, non per imitazione, come diceva Pelagio, ma per propagazione. Questa trasmissione rimane un mistero che non possiamo comprendere appieno. Questo direi che è poi il punto centrale, che riassume veramente il grosso. E qui è interessante perché non parla di generazione, rimane più sul mistero, no? Rimane, dice, propagazione, esatto. Propagazione. Non per imitazione, per propagazione. Non usa il termine generazione. Neppure il catechismo lo utilizza. Però parla infatti parla di unità di origine, cioè di tutti gli uomini. E terzo punto, prima ho letto dal 75 al 78, ma il 78 è già fuori da quello che ci interessa, quindi 75-77 sono. Terzo punto, 77, in conseguenza del peccato originale, la natura umana, senza essere interamente corrotta, quindi non come dice Lutero, non è interamente corrotta, ma è ferita nelle sue forze naturali, è sottoposta all'ignoranza, alla sofferenza, al potere della morte ed è incline al peccato. Tale inclinazione è chiamata concupiscenza. Allora, giusto per sottolineare due o tre cose, ma che poi vedremo più in dettaglio commentando il catechismo, qui si dice: la natura umana è sottoposta all'ignoranza, alla sofferenza, al potere della morte. Questo presuppone che prima non fosse così, quindi che esistesse uno stato originario. Quello stato originario che per molti scienziati e anche teologi sarebbe come inconcepibile, come l'assenza della sofferenza e della morte per un uomo fatto come gli altri animali, quindi sorto così, come è possibile pensare a una condizione originaria a un paradiso terrestre. Però qui il catechismo lo lascia senz'altro presupporre. E altro documento recentissimo, poi dopo arriviamo al catechismo, ma giusto per dire che c'è anche questo, il documento della Commissione Teologica Internazionale sul problema dei bambini, la salvezza dei bambini morti senza battesimo, che è un documento molto lungo, anche bello, anche una parte in cui traccia tutta la storia della dottrina riguardo al peccato originale. E ai numeri 54 e 55 diciamo fa un po' rapidissimamente una storia, dice, parla della dottrina paolina sull'universalità della redenzione, che richiede come corrispettivo l'universalità del peccato, che è il motivo per cui Paolo parla del peccato di Adamo, perché tutti hanno bisogno della salvezza di Cristo. E si dice: la condizione di peccato dell'umanità è legata al peccato del primo uomo, Adamo. Questa solidarietà con il primo uomo, Adamo, è enunciata in due testi paolini, che noi abbiamo visto varie volte. Uno 5:12. Bravo, prima dice 1 Corinzi 15:21, che è come tutti sono morti in Cristo, così tutti sono morti in uno, così tutti riceveranno la vita. Vabbè. E poi infatti Romani, e poi soprattutto dice, e in particolare Romani 5:12 dice che è quello: come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e col peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. E si dice: in questo anacoluto, perché è una frase che si spezza, che rimane lì senza, come un arco, poi non continua. In questo anacoluto, la causalità primordiale della condizione di peccato e di morte dell'umanità, la causalità primordiale, viene attribuita a Adamo. Comunque venga interpretata l'espressione famosa, quella EPO, FO, in greco. Ve lo potrei scrivere precisamente perché qui c'ho il testo, ma comunque non ci importa. La cosa che Sant'Agostino diceva: in quo, nel quale tutti hanno peccato, cioè in Adamo, e che invece oggi la traduzione è poiché tutti hanno peccato, e o quo, per il fatto che tutti hanno peccato. Ma dice: comunque venga tradotta, la causalità primordiale della situazione dell'umanità qui in questa frase viene attribuita ad Adamo. E sempre questa causalità universale del peccato di Adamo è presupposta in, e cita quattro passi della lettera ai Romani, in Romani 5:5, 16, 17 e 18, ed esplicitata in Romani 5:19a. Non so, quindi per Paolo è chiarissimo che la causalità del peccato dell'umanità è in Adamo. Poi dice più tardi: Paolo tuttavia non spiega mai come venga trasmesso il peccato di Adamo, non lo spiega mai, il modo della trasmissione, dice che tutto deriva da Adamo, però il modo non lo spiega. Contro Pelagio, che pensava che Adamo avesse influenzato l'umanità dandole un cattivo esempio, Pelagio, Agostino obiettava che il peccato di Adamo veniva trasmesso per propagazione o eredità, portando così alla sua espressione classica la dottrina del peccato originale. Sotto l'influenza di Agostino, la Chiesa d'Occidente ha quasi unanimemente interpretato Romani 5:12 nel senso di una ereditarietà del peccato. In seguito a ciò, e concludo la citazione, in seguito a ciò il Concilio di Trento nella sua quinta sessione ha definito quello che noi abbiamo letto, che sappiamo: se qualcuno afferma che la prevaricazione di Adamo nocque a lui solo e non anche alla sua discendenza, che perse soltanto per sé e non anche per noi la santità e la giustizia ricevute da Dio, eccetera eccetera eccetera, sia anatema. Allora, ecco, qui la Commissione Teologica cita un po' questa storia della dottrina del peccato, passando da San Paolo, Agostino, fino al Concilio di Trento, rapidamente, e non mette in, cioè non mette in discussione la storicità di Adamo e del suo peccato. Semmai si concentra di più a vedere, ma la trasmissione di questo peccato come viene chiarita e definita, ma sulla storicità anche nel seguito della, e al, prima e dopo nel documento non viene mai fatta nessun tipo di tentativo destoricizzante del peccato di Adamo. Quindi ecco, veniamo al catechismo, che è la cosa più interessante, è che così, perché dal catechismo a me interessa anche ricavare e sottolineare quei punti che sono più importanti sia nel confronto con la scienza e vedere come il catechismo un po' li tocca, sia anche però vedere come l'esposizione che fa Trento della dottrina ha un linguaggio diverso da quello del Concilio di Trento, cioè non nell'essenziale, evidentemente c'è concordanza piena, però lo anticipo un po', il linguaggio della colpa, della punizione, del peccato è senz'altro un po' diverso, è attenuato e si ed è espresso con termini diversi. Quindi questo anche è utile che così lo teniamo presente, anche per poter, sia per noi sia per poter spiegare le cose ad altri, perché in effetti dire l'idea di una colpa ereditata, che era una colpa mia, detto così veramente risulta molto sgradevole, no? E in effetti non è, vedremo che non è il modo corretto di dire le cose. Allora, catechismo. Ci sono vari punti, il catechismo sviluppa bene il tema della caduta, in fondo vanno dal 385 fino al 400, compresi i punti di sintesi, fino al 421 o al 412 se togliamo i numeri di sintesi alla fine di ogni paragrafo. Quelli più centrali per noi sono un po' meno. Allora, un primo elemento che traiamo dal numero 387 è questo. Dice, la realtà del peccato, qui parla del peccato in generale, e più particolarmente del peccato delle origini, si chiarisce soltanto alla luce della rivelazione divina. Senza la conoscenza di Dio che essa, la rivelazione, ci dà, non si può riconoscere chiaramente il peccato e si è tentati di spiegarlo semplicemente come un difetto di crescita, una debolezza psicologica, un errore, come l'inevitabile conseguenza di una struttura sociale inadeguata, eccetera. Soltanto conoscendo il disegno di Dio sull'uomo si capisce che il peccato è un abuso di quella libertà che Dio dona alle persone create perché possano amare Lui e amarsi reciprocamente. Numero 387. Quello che volevo cogliere di qui è che il catechismo dice non possiamo pensare che il peccato che vediamo in tante forme nell'umanità sia in fondo una debolezza congenita. Questo penso che in modo velato, lo dico io e non lo so, però a me sembra che in modo velato qui si scartino quelle interpretazioni del peccato dell'umanità che tendono a vederlo appunto in termini puramente naturalistici, un po' anche come faceva il buon Teilhard de Chardin, cioè come un qualcosa che naturalmente appare nell'uomo perché l'uomo che deriva dal processo evolutivo è ancora, diciamo, prima di arrivare alla perfezione deve trovare un po' la sua via, allora c'è il male, appare il male. No, l'origine del male è propriamente l'abuso della libertà che Dio dona alle persone create, quindi è una questione di rapporto con Dio e che potrebbe non esserci, potrebbe non esserci, anzi per quello che vedremo nei punti successivi è chiaro che che Dio voleva le cose in modo che non ci fosse questo peccato, eh? E c'erano le condizioni perché non ci fosse. Quindi una prima cosa è questa, un po' una negazione di visioni che vedono il peccato come qualcosa di un po' di congenito alla natura umana, e di cui in fondo non dobbiamo stupirci. Seconda cosa, il numero successivo, il 388, che segue un po' da questo primo, in questo 387 si dice: la rivelazione ci dà la luce chiara sull'essenza del peccato. Il 388 dice che viene chiarita anche la realtà del peccato, viene chiarita alla luce della storia della caduta di Genesi, però questa illuminata a sua volta da Cristo. Bisogna conoscere Cristo come sorgente della grazia per conoscere Adamo come sorgente del peccato. Cioè, per rendersi conto della gravità, diciamo, del peccato di Adamo, bisogna vedere che è stato necessario Cristo come Redentore. È lo Spirito Paraclito mandato da Cristo risorto che è venuto a convincere il mondo quanto al peccato. Come convince quanto al peccato? Rivelando colui che del peccato è il Redentore. Cioè, quando noi guardiamo chi è il Redentore, il Figlio di Dio fatto uomo, e come ci ha redenti, capiamo la natura del peccato. Abbiamo più luce per capire la natura del peccato. Terzo punto, ecco, che forse è uno di quelli più importanti per noi, sulla storicità del peccato originale, nel numero 390 si dice: il racconto della caduta, tra parentesi Genesi 3, terzo capitolo della Genesi, utilizza un linguaggio di immagini, ma espone un avvenimento primordiale, un fatto che è accaduto all'inizio della storia dell'uomo. La rivelazione ci dà la certezza di fede che tutta la storia umana è segnata dalla colpa originale liberamente commessa dai nostri progenitori. Quindi è un fatto storico, un evento primordiale avvenuto all'inizio dell'umanità. Cioè, c'è stato un prima e un dopo il peccato originale, diciamo. Ma quello è un fatto storico. Al numero 398, quindi ne saltiamo alcuni, perché poi si parla della caduta degli angeli. La caduta degli angeli che ha relazione con il peccato originale, perché in fondo il seduttore è il demonio che non ha forzato l'uomo a peccare, però lo ha tentato, e l'uomo si è lasciato tentare. E noi non l'abbiamo detto molto, ma comunque si può anche dire che in realtà effettivamente l'esistenza di uno spirito angelico, che è Satana, a tentare l'uomo è qualcosa che anche Giovanni Paolo II lo dice. Cioè, il peccato, il male, è di una tale profondità che quasi supera di per sé la capacità umana di, quindi effettivamente e noi non riusciamo a chiarirlo fino in fondo, l'essenza del peccato nel suo essere contraddizione nei confronti di Dio. Si intuisce che lì c'è lo zampino di una creatura superiore, di una creatura di un'intelligenza superiore e perversa. La caduta degli angeli, cosa dice? È che ci porta via un po' di tempo. Sono 6-7 punti. Comunque dice: gli angeli creati buoni per natura sono creati buoni, ma si sono resi cattivi. Come? Satana è uno di questi, no? Sì, Satana è il capo. La caduta consiste nell'avere, con libera scelta, radicalmente e irrevocabilmente rifiutato Dio e il suo regno. Rifiutato Dio. Interessante pensare che si parla di una cattura degli angeli, invece lui si cattura dell'uomo, del suo primo uomo. Cioè, certo, beh, perché gli angeli, tutti i demoni sono angeli, sì, caduti. Nel momento in cui hanno avuto la possibilità di scegliere, ma in fondo poi la radice è sempre scegliere se stessi, mm-hmm, affermare se stessi senza Dio. In fondo questo è anche per l'uomo poi, questo. Sì. Bene. Numero 398, dicevamo, si dice qui riguardo al peccato dell'uomo: con questo peccato l'uomo ha preferito se stesso a Dio e perciò ha disprezzato Dio, ha fatto la scelta di se stesso contro Dio, contro le esigenze della propria condizione di creatura e conseguentemente contro il suo proprio bene. Noi su questo un po' poi domani diremo alcune cose in più, ma a me interessava soprattutto la seconda parte di questo punto, che dice: creato in uno stato di santità, l'uomo era destinato ad essere pienamente divinizzato da Dio nella gloria. Quindi era creato in uno stato di santità e destinato da questo stato a essere poi pienamente divinizzato nella gloria. Sedotto dal diavolo, ha voluto diventare come Dio, ma senza Dio, e anteponendosi a Dio, non secondo Dio. In questo punto mi interessava sottolineare che si fa riferimento alla condizione in cui Dio aveva creato, aveva posto l'uomo, uno stato di santità, il cui termine sarebbe stata la gloria, non la morte, ma la gloria. Nel numero 400 c'è una descrizione della condizione originaria, perché dice il punto: l'armonia nella quale essi erano posti grazie alla giustizia originale, Adamo ed Eva, è distrutta, qui dopo il peccato chiaramente si intende, la padronanza delle facoltà spirituali dell'anima sul corpo è infranta, l'unione dell'uomo e della donna è sottoposta a tensioni, i loro rapporti saranno segnati dalla concupiscenza e dalla tendenza all'asservimento, l'armonia con la creazione è spezzata, la creazione visibile è diventata aliena e ostile all'uomo, a causa dell'uomo la creazione è sottomessa alla caducità, si cita Romani 8:20. Infine, la conseguenza esplicitamente annunziata nell'ipotesi della disobbedienza si realizzerà. L'uomo tornerà in polvere, quella polvere dalla quale è stato tratto. La morte entra nella storia dell'umanità. Cioè, qui viene, diciamo, affermata in modo semplice, senza troppi arzigogoli, però viene affermata fondamentalmente la dottrina dei doni preternaturali e dello stato di giustizia originario, in cui l'uomo era veramente come signore della creazione, di se stesso in primo luogo, e non era prevista la morte. La morte poteva essere scongiurata, diciamo. Ecco, anche, diciamo, io penso che questo punto qui è quello che da un lato la storicità del peccato di Adamo, da un lato l'esistenza della condizione diciamo di santità e di giustizia originaria, sono i due punti che più cozzano con una certa mentalità scientista, positivista. Ora, il catechismo lì queste cose le afferma, le afferma in linea con diciamo tutta una tradizione. Sulla trasmissione del peccato si dice quello che abbiamo già letto nel compendio prima, la modalità della trasmissione è più esteso il punto, il numero 404, vabbè, lo leggiamo un attimo, poi volevo arrivare a una cosa che mi sembrava più interessante. Fondamentalmente si dice: in che modo il peccato di Adamo è diventato il peccato di tutti i suoi discendenti? Tutto il genere umano è in Adamo circut unum corpus unius hominis, come un unico corpo di un unico uomo. La citazione è di Tommaso d'Aquino. Per questa unità del genere umano tutti gli uomini sono coinvolti nel peccato di Adamo, così come tutti sono coinvolti nella giustizia di Cristo. Tuttavia la trasmissione del peccato originale è un mistero che non possiamo comprendere appieno. Anche qui si dice che è un mistero. Però poi si abbozza. Sappiamo però dalla rivelazione che Adamo aveva ricevuto la santità e la giustizia originali non soltanto per sé, ma per tutta la natura umana. Cedendo al tentatore, Adamo ed Eva commettono un peccato personale, ma questo peccato intacca la natura umana, che essi trasmettono in una condizione decaduta. Si tratta di un peccato che sarà trasmesso per propagazione a tutta l'umanità. Cioè, cosa vuol dire propagazione a tutta l'umanità? Cioè, con la trasmissione di una natura umana privata della santità e della giustizia originaria. E non si parla di generazione, si parla del fatto che però noi in Adamo siamo come un solo corpo e che la natura umana che, in cui nasciamo è indebolita, è viziata. Per questo il peccato originale è chiamato peccato in modo analogico. È un peccato contratto e non commesso, uno stato e non un atto. L'inizio del numero 405 che mi interessa è, perché riguarda sempre questo, il peccato originale, sebbene proprio a ciascuno, in nessun discendente di Adamo ha carattere di colpa personale. Consiste nella privazione della santità e della giustizia originale, eccetera, eccetera. Ecco, questo ultimo punto ci dà lo spazio per la cosa conclusiva, 2 minuti ancora di pazienza. Perché mentre appunto nei confronti del mondo scientifico eccetera si ribadisce, faccio io questa distinzione, il catechismo non penso, cioè probabilmente tiene conto un po' tutte le cose, ma distingo io tra diciamo risposte a obiezioni che vengono un po' dalla visione scientista, quindi la storicità del peccato di Adamo e l'esistenza dello stato originario. E invece adesso volevo sottolineare il linguaggio che viene utilizzato come un linguaggio che senz'altro è più attento anche alla sensibilità anche attuale. Allora, si dice tutti gli uomini, qual è il linguaggio con cui si esprime la nostra solidarietà con Adamo, quindi il fatto che abbiamo anche noi il peccato originale. Tutti gli uomini sono coinvolti nel peccato di Adamo, coinvolti. Senz'altro non si dice che abbiamo peccato anche noi o che abbiamo peccato in Adamo. Questo non esiste. Siamo coinvolti. Poi si dice la miseria umana e l'inclinazione al male sono incomprensibili senza il legame con la colpa di Adamo. C'è un legame con la colpa di Adamo. Nasciamo contaminati dal peccato originale, che è morte dell'anima. Ne siamo contaminati. Di nuovo si ripete, io seguo un po' i punti del catechismo, diciamo, anche se non ve li cito, che tutti siamo coinvolti nel peccato di Adamo così come nella giustizia di Cristo. E poi la cosa, ecco, più fondamentale, il peccato originale trasmesso a noi è un peccato in senso analogico, cioè per distinguerlo dai peccati personali o attuali che noi possiamo commettere con la nostra libertà. Peccato in senso analogico, contratto, non commesso. Uno stato, quindi una condizione, no? Uno stato e non un atto. Poi si sottolinea, come vi dicevo prima alla fine, è proprio a ciascuno, ma non ha carattere di colpa personale. E quindi non è un linguaggio di colpa e di punizione. Anche addirittura nei confronti di Adamo ed Eva non si parla neanche per loro di punizione, non che per loro non fosse punizione, ma comunque si dice, si mostra che Adamo ed Eva, dopo il peccato, perdono immediatamente la santità e la giustizia, e la perdono, è come una conseguenza del loro atto. È come se, in un certo senso, Dio permette il loro esercizio della libertà, anche il loro abuso, e la conseguenza è che si rompe quella relazione con Dio che c'era prima, e con questo le sue conseguenze. Ricordate che Trento, cioè, con un linguaggio un po' più forte, se uno non confessa che Adamo, quando trasgredì nel paradiso il mandato di Dio, immediatamente perse la santità e la giustizia in cui era, e incorse a causa dell'offesa di disobbedienza nell'ira e nell'indignazione di Dio, insomma, è un linguaggio più che senz'altro sottolinea la colpa, la punizione. Neanche Trento parla di colpa nei confronti nostra, diciamo, parla di peccato. Ma mi sembra che il catechismo, ecco, un'altra cosa che volevo notare, che sottolinea di più il fatto della la privazione, dice almeno una volta, forse anche il compendio lo dice, che il peccato originale è la privazione in noi, la privazione della santità e della giustizia originale. Segue Tommaso d'Aquino, quindi. In questo c'è molto Tommaso, no? Privazione della giustizia originale. Quindi l'idea di fondo che si percepisce un po' è che, appunto, Dio permette all'uomo di esercitare anche male la propria libertà, e lo permette ad Adamo, permette che ne subisca le conseguenze, e al tempo stesso, noi non l'abbiamo detto, ma i punti sul peccato originale terminano con il capitoletto, il paragrafo: tu non l'hai abbandonato in potere della morte. E l'ultimo punto si chiede: ma perché Dio non ha impedito al primo uomo di peccare? Quindi Dio non solo permette il peccato, permette che l'uomo ne subisca le conseguenze, ma conosce e già sa che c'è a tutto questo un rimedio, che è la salvezza di Cristo. Il rimedio è il fatto che la salvezza, che comunque ci viene da Cristo, cioè, era comunque in Cristo, passerà anche attraverso la croce. Questo lo dico io, ma lo vorrei vedere meglio la prossima volta. Vi spiego quali saranno le prossime lezioni, che sarà la prossima domani, prendere alcuni spunti interessanti da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, e anche da un autore che è Bordoni, che è un teologo italiano molto in gamba, soprattutto in temi di cristologia, soteriologia, alcune idee da un suo articolo, per far vedere com'è effettivamente quell'idea che noi siamo più legati a Cristo e ricevono di più l'influsso di Cristo piuttosto che quello di Adamo, lui la esprime molto bene. Quindi vedere un po' in questi tre, chiaramente due hanno un'importanza più grande, però anche Bordoni è interessante. Poi le ultime due lezioni saranno un po' conclusive, per cercare, così, anche da parte mia, di darvi qualche, insomma, un pochino una specie di visione di insieme delle cose, poi anche opinabile in alcuni punti, però su cui potremmo anche un po' discutere, anche con l'idea di dire: ma come possiamo spiegare bene oggi il peccato originale sia per noi sia anche per noi, traendo un po' gli spunti, le fila di tutto quello che abbiamo detto.